febbraio 2023, quando a Budapest l'11 febbraio avviene la consueta manifestazione in occasione del cosiddetto Giorno dell'Onore, ricorrenza in cui i nazisti di tutta Europa si riuniscono a Budapest per commemorare con una serie di iniziative e manifestazioni pubbliche l'annientamento della Wehrmacht tedesca avvenuto l'11 febbraio del 45 da parte dell'Armata Rossa durante l'assedio di Budapest. E durante questo weekend di iniziative la polizia ungherese arresta 4 persone, di cui poi 2 vengono rilasciate, e le altre 2, Ilaria e Tobias, sono da allora in carcere in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a delle aggressioni a dei neonazisti, le cui vittime hanno riportato lesioni lievi, guaribili in 5-8 giorni. Loro sono accusati di aver attentato alla vita delle vittime, nonostante, come ho detto, le lesioni riportate da questi siano assolutamente lievi. Per questi fatti Ilaria e Tobias vanno incontro a pene fino ai 16 anni. Di recente altre 2 persone, di cui uno è un ragazzo italiano di 23 anni, Gabriele, vengono arrestati a seguito di un mandato di arresto europeo, e per Gabriele il processo per l'estradizione è in corso e se il giudice deciderà di estradarlo verrà detenuto in carcere in Ungheria in attesa del processo, dove andrà incontro alle stesse condizioni detentive assolutamente disumane nelle quali da 10 mesi si trova Ilaria. Come Ilaria ha scritto nella lettera che è stata menzionata negli ultimi giorni dai media, le condizioni inaccettabili in cui sta vivendo sono tantissime e anche difficile entrare nel merito di tutte. Per mesi non ha potuto parlare con i genitori né con nessun altro, non ha potuto ricevere vestiti, ritrovandosi con solo la biancheria intima che indossava nel momento dell'arresto e dei vestiti sporchi dati dal carcere, senza assorbenti, dovendosi lavare in un catino. Il carcere è infestato dalle cimici da letto, per il cui morso Ilaria riporta una reazione allergica e per cui l'amministrazione penitenziaria esegue disinfestazioni con prodotti chimici, obbligando i detenuti a tornare in cella immediatamente dopo che sono stati usati questi prodotti e quindi a respirare gas tossici con rischio di conseguenze a lungo termine sulla salute. Disinfestazioni che comunque evidentemente non funzionano, dato che le cimici sono sempre lì. Il cibo è scarso, molte zuppe annacquate con dentro peli e pezzi di plastica. Ilaria è tenuta in cella 23 ore su 24 e nell'ora d'aria i detenuti stanno in un corridoio sottoterra senza luce del sole. Ilaria comunque avviene in contemporanea alle docce, quindi devi decidere se lavarti o fare l'aria. I trasferimenti fuori dal carcere avvengono con manette di cuoio a polsi e caviglie legate insieme da catene e con anche un guinzaglio di cuoio legato al polso con il quale la guardia carceraria conduce l'imputato lungo tutto il percorso. Ilaria tuttora non può ricevere lettere da nessuno se non dai genitori e dal suo compagno. E si tratta chiaramente di un trattamento disumano, lesivo della sua dignità ed anche dannoso per la sua salute psicofisica, perché c'è il rischio di denutrizione, le reazioni allergiche, l'inalazione di gas tossici e non meno grave il quasi isolamento, che è stato provato da numerose ricerche essere dannoso a lungo termine per la salute psicofisica degli esseri umani. E io questo vorrei ribadire, che colpevole o innocente, si tratta di un essere umano ed io penso che non sia accettabile che nessuna persona venga trattata in questo modo.